avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Voi credete agli alieni? È una domanda che di solito ha un senso abbastanza retorico, perché è chiaro che la risposta è un sorriso, una botta sulle spalle, dire ma sì, gli UFO, gli alieni, gli omini verdi e via dicendo. Vi dico subito qual è il mio punto di vista in proposito. Non ho nessun pregiudizio, potranno anche esserci gli alieni, anzi dico che una delle grandi sorprese che ancora può avere l'umanità, che non sorprende più di nulla, è la scoperta, mi sembra ve l'ho detto altre volte, della possibilità del viaggio attraverso il tempo e la certezza diffusa, incontrovertibile, dell'esistenza di forme aliene di vita, ma non microbatteri, non esseri ectoplasmatici, ma vedere proprio gli omini verdi come nei film di fantascienza che scendono sulla Terra. Questa è la lettura più superficiale, mutata alle nostre latitudini mentali, soprattutto da film di fantascienza, letteratura fantascientifica, e nei circoli ristretti in cui si studia questo fenomeno come fenomeno scientifico, senza avere naturalmente il riconoscimento della scienza ufficiale, questa è la forma più diffusa di una civiltà che ha precorso in tempi indecifrabili e indefinibili la nostra, vive anni luce lontano dove fisicamente noi ci produciamo, però riesce ad avere, grazie alla sua tecnologia avanzatissima, possibilità di entrare in contatto con noi. Vive vigile alle nostre spalle, non si manifesta, non si appalesa se non attraverso alcuni segni che poche persone che hanno una sensibilità particolare o sono prescelti per questa funzione riescono ad intercettare. Su questo possiamo aprire tutte le discussioni che vogliamo, tanto finché non ci sarà una concreta, incontrovertibile prova di questo, potremmo lasciarlo nell'ambito del dubbio, ma oggi nell'ambito del dubbio è lecitamente ogni manifestazione non scientificamente descrivibile o riproducibile, anche il miracolo in sé è giustamente, lecitamente nell'ambito del dubbio, anche ogni forma e ogni studio e ogni credenza religiosa, ogni metafisica è nell'ambito del dubbio, appartiene a un'esperienza individuale che è l'esperienza dello spirituale, l'esperienza di un cammino in una fede religiosa, l'esperienza di un sconvolgimento mistico, l'esperienza di un grande cammino interiore, che sono rispettabilissime esperienze, invidiabili stati dell'esistenza, ma nessuno potrà dirvi che scientificamente vi provano l'esistenza del sovrasensibile, eppure c'è rispetto a questo ordine di pensieri. Perché? Perché milioni di persone hanno fedi religiose, milioni di persone credono nei miracoli, milioni di persone ogni giorno operano attraverso forme non razionali di incidere sulla realtà, pregando, dicendo mantra, immaginando, meditando, facendo esercizi spirituali, facendo discipline fisiche e via dicendo. Tutto questo esiste, in tutto questo si fa spazio anche l'idea che possa esistere questa realtà parallela, non so se distante, non so se vicina, non so se fatta di omini verdi con sei dita al posto delle cinque che abbiamo noi, o con lunghi capelli biondi, o con aspetti sauriformi. Questo è il mondo degli alieni. In questi giorni è stato salutato dalla stampa specializzata il primo film italiano sugli UFO. Si tratta di Sei giorni sulla Terra, un film realizzato da un regista italiano, Varo Venturi, un film che racconta un'esperienza e un punto di vista collaterale rispetto a quello descritto. Gli alieni non sarebbero intenzionati a scendere sulla Terra con le loro astronavi, come nella più acclamata fantascienza, ma sarebbero già presenti nell'umanità attraverso le adduzioni, cioè attraverso la possibilità di entrare in contatto in maniera sottile, in maniera subliminale, in maniera tecnologicamente avanzatissima come esseri umani. Un numero cospicuo di esseri umani racconta l'esperienza dell'adduzione, racconta di essere stati o rapiti dagli alieni o avere in sé qualcosa che ricorda loro una realtà che non è quella di questa Terra. Beh, voi rispetto a questo vi ponete 800240024. Ma cosa ci fai tu nel corpo di questa ragazza? Non ti appartiene mica? e lei vuole di nuovo essere la sola padrona di questo contenitore. Io sono Saturnia. Sono sicura di essere stata rapita da... Ci sono tanti mali su di me, toccano ovunque. Cos'è? Di fronte a me? Fermiamoci, è la prima volta che sentiamo una cosa del genere da un adulto. Chiamami Hexabor. Hexabor di Ura. Alcune razze extraterrestri, seguendo un programma di controllo e manipolazione genetica che dura ormai da millenni, impiantano nella mente dell'uomo più memorie alienative per poter sfruttare una certa particolare energia di cui è susceduto. Varo Venturi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve. Varo Venturi è il regista del film Sei giorni sulla Terra, ma è molto più che un regista perché ha trasformato attraverso appunto quello che è il suo mestiere, la sua espressione artistica, quello che immagino, mi corregga se sbaglio, che è una sua profonda convinzione. Questo film è ispirato alle teorie, al circolo di pensiero del biochimico italiano Corrado Malanga, che è uno scienziato, appunto, si occupa di biochimica, che lavora e studia e ha elaborato una sua teoria e pratica proprio sulle adduzioni. Corrisponde a realtà quello che ho detto, Varo Venturi? Innanzitutto volevo complimentarvi per la bellissima introduzione che ho sentito fare. Vorrei sentirmi dire questa frase più spesso, lo so. No, invece in qualche maniera univa e faceva priva, no? Faceva un quadro veramente molto giusto. Convinzione, sempre quindi rifacendomi a quello... Guardi, lo dico subito così sfatiamo da parte sua il sospetto che possa averla chiamata per prenderla in giro, da parte degli ascoltatori il fatto che io possa abbracciare con entusiasmo alla Giacobbo alcune teorie. Io sono scettico di natura verso qualsiasi manifestazione che mi si presenta, fosse anche la presenza di Alessandro Chiappini di fronte a me che pesa 110 kg, quindi solo che allo stesso tempo sono aperto a qualsiasi tipo di idea che gli altri mi propongano, mi piace discuterne. Vorrei capire esattamente, forse la prima volta in Italia si fa un film così legato a filo doppio con una teoria rappresentata da personaggi viventi e operanti. Non stiamo parlando di qualcosa lontano nel tempo, ma di qualcosa molto vicino, anche molto controverso. Sì, innanzitutto diciamo scetticismo e profonda convinzione sono due opposti, no? Che sono molto vicini, chiaramente l'assoluto scetticismo presuppone, appunto, il non credere, no? Ha quasi la stessa valenza del credere fermamente. Comunque, non esiste peggior pregiudizio che quello laicista che dice: ah, per forza Dio non esiste. Come fai a dire che non esiste? La stessa... Come fai a dire che esiste? Come fai a dire che sì, non ma esiste? Non perdiamo tempo, sennò ci facciamo dei grandi pipponi mentali. Dobbiamo arrivare a capire cosa dice questo suo film. Questo suo film sincretizza una teoria che appunto in Italia fa capo a Corrado Malanga, che dice che, io la sintetizzo, poi lei mi correggerà, che gli alieni in realtà sarebbero qualcosa di simile a quelli che le grandi religioni monoteiste chiamano i demoni, qualcosa che entra dentro gli esseri umani attraverso una tecnologia avanzatissima, potrebbe essere un microchip, potrebbe essere una tecnica biologica che non conosciamo ancora noi, e si impossessa e li succhia pian piano l'esistenza e l'anima. Demoni, angeli e insomma diciamo tutte le figure. Cioè ognuno l'ha chiamati nei tempi a modo suo, in realtà sì. Attraverso la teoria di Malanga sarebbero questi alieni che entrano dentro gli esseri umani, ma per farne cosa? Per colonizzare questo tipo di civiltà, come sempre racconta la fantascienza, o ci sono altri scopi? Diciamo da questo punto di vista è anche ancora più interessante citare Castaneda, no? E in particolare le conversazioni con Don Juan, di quando lo sciamano, no? Sì, ma teniamoci sugli alieni, sennò Castaneda è un famoso antropologo che fece un'esperienza col peyote nel deserto del Nuovo Messico, che andava lì e fece un cammino sciamanico guidato da uno sciamano locale. Uno sciamano insomma è una figura abbastanza attendibile da questo punto di vista, se volevo dire i voladores che descrive il Don Juan di Castaneda in qualche maniera assomigliano molto all'entità di cui stiamo parlando, no? Che in qualche maniera sono il perché in qualche maniera hanno bisogno del contenitore umano per nutrirsi della sua energia. Vabbè, questo lo riconosco. Chiunque abbia una visione metafisica sa che esistono delle entità intermedie fra l'umano e il sovrumano, che appunto sono questi elementi naturali, demoni, spiriti legati a oggetti, a luoghi, a elementi naturali e via dicendo, che trattano gli uomini come qualcosa che si possa sbocconcellare per esistere. Esatto, e se questa energia che in qualche maniera qui chiamiamo, in unione anche agli studi di Corrado Malanga, anima, no? Quindi dato anche una, come dire, una sorta di spiegazione a quest'altra entità che in qualche maniera occupa le nostre menti, no? E le nostre visioni mistiche e spirituali praticamente da sempre, no? Senza che mai nessuno ci abbia dato le istruzioni per l'uso di questa benedetta anima. E diciamo, quindi ci sono tanti punti di collegamento ed era più che giusto, come dire, avvicinarlo quindi alle religioni, ai grandi concetti religiosi e anche, diciamo, sovrascrive rispetto a quello che hanno detto le religioni più conosciute da noi, con questa sua idea che siano in realtà esseri extraterrestri. Lui classifica in varie categorie, mi sembra, i sauroidi, i grigi, quello lo fanno centinaia e centinaia di ricercatori di tutto il mondo. La descrizione ormai delle varie razze terrestri che sarebbero in qualche maniera coinvolte nel progetto uomo, diciamo così, chiamiamolo. Sono così, quelli, no? Che vediamo nei film, cioè gli omini verdi. Sono quelli che poi alla fine vediamo nei film fantasticamente variati. Quelli che assomigliano a degli angeli, quelli proprio brutti, brutti come alien, ecco. Da quelli. Beh, oddio, no, forse siamo più vicini ai Visitors da un certo punto di vista, fino ai grigetti buoni di Spielberg e fino agli umanoidi, che anche loro protagonisti di tantissima fantascienza degli anni 50 e 60, umanoidi che gli anglosassoni chiamano Nordics, per esempio, perché alti, biondi, con gli occhi chiari, molto simili alla loro controparte terrestre, per intenderci, che possiamo riconoscere in tutte, che ne so, le razze nord-europee, per esempio, o in molte raffigurazioni dell'età, ecco, classica, nel suo film viene descritto questo tipo di realtà, una ragazza che ha strani sintomi, viene messa in analisi, come appunto fa Corrado Malanga, facendo una sorta di fare di percorso interiore, ipnosi regressiva, sì, esatto. Fino a che a un certo punto il soggetto riconoscerebbe in sé che c'è qualcosa che non funziona e vedrebbe la persona che lo sta possedendo, la persona, l'essere alieno che lo sta possedendo. Gli studi sugli addotti, un po' in tutto il mondo, ma qui in Italia ci fregiamo del lavoro, del profondo lavoro di Corrado Malanga, e in qualche maniera non sono necessariamente gli unici che ritengono di essere stati rapiti dagli alieni, al limite necessariamente non è che ritengono di essere stati rapiti dagli alieni, condividono tutti più che altro delle anomalie psicofisiche che li porta ad avvicinarsi a una possibile soluzione, una possibile, no, guarigione in un certo senso. Dipende dal punto di vista, diciamo, dalla Weltanschauung del soggetto, la visione della vita. Sì. Chi va dallo psichiatra, chi va dal prete a farsi benedire e chi pensa che in realtà possa essere questa terza via rispetto al suo disagio. Bravissimo, esattamente. Beh, questa è la giusta analisi. È il nostro mestiere. Quindi in qualche maniera, se avviene questa esperienza, se c'è questa possibilità che appunto esseri probabilmente interdimensionali, perché questa è la cosa, è l'elemento ancora più interessante, in qualche maniera rapiscono e manipolano degli esseri umani, e questi esseri umani non devono ricordare questa esperienza, e questa è una cosa tanto difficile da accettare, perché riusciamo a farlo anche noi, no? In un certo senso, la rimozione di dati dalla nostra memoria non stiamo parlando di una chissà quale futuristica realtà. Sì, ma anche i Men in Black, infatti, hanno quel dispositivo per togliere la memoria a tutti quelli che vedono, hanno contatti con gli alieni, perché d'altra parte immagino che ci sia un disegno da parte dei grandi governi centrali di tenersi questo segreto, che sennò sarebbe destabilizzante. Esattamente, esattamente. Quindi, sentiamo qualche ascoltatore, fermiamoci solo un istante, vuol dare la voce a qualche ascoltatore. Renato. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Niente, io premetto che secondo me è egoistico pensare che non ci possa essere altre forme di vita tranne che noi, no? Perché l'universo è talmente immenso che sarebbe egoistico pensare questa cosa qua. Può essere un'ipotesi, infatti mi rende nessuno. Infatti, e quello che volevo anche dire è che un mio amico carissimo che non fuma marijuana, nel senso, nell'85, lui alle 2 di notte era giù seduto sulla panchina, cormano seduto, ha visto una forma cilindrica e tra l'altro poi è stato poi anche descritto sui giornali che all'inata avevano fatto questi avvistamenti un po' strani. Questo siluro, ma veramente una cosa immensa con tante luci, un bel momento ha detto che hanno alzato lo sguardo, ha fatto una volata proprio, è andato via velocissimo, non hanno detto a nessuno, ha raccontato così ai loro amici, perché sa che dopo c'è questa ignoranza della gente che parla. Beh, ci sono fiumi di letteratura su questo, a parte i film. La realtà è che finché non ne prenderanno una di queste navi, la esporranno a Piazza del Popolo e la gente potrà pagare il biglietto per entrarci dentro e vedere com'è fatta, rientra nel campo delle ipotesi. Ci sono tante testimonianze, ma ci sono anche tante testimonianze che vedono la gente camminare sull'acqua, che fanno i miracoli, cioè di tutto c'è. Però gli atti di fede sono rispettabili, io li rispetto tutti. La realtà concreta, perché noi siamo abituati a dare per certo ciò che concretamente vediamo, è il nostro limite di essere occidentali, ma per noi è questo la realtà. È fatta l'astronave aliena con gli alieni in uno stand a Piazza del Popolo o alla Fiera di Roma o alla Fiera di Milano, dove volete voi, a Barcellona e via dicendo. Le persone vanno lì tranquillamente, stringono la manina grigia, ci parlano e via dicendo. Allora sì, uno potrà dire esistono. Roberto. Pronto? Eccomi. Pronto? Sì. Sì, no, volevo fare una premessa. Questa, dicevo, che l'intelligenza implica il senso del non conosciuto, del mistero, no? A cerca tutti i filosofi, parliamo concretamente. Sì, sì, cerca risposte laddove l'ignoranza, la stupidità non può nemmeno intuire le domande. Fatta questa premessa, cioè guardi che le testimonianze riguardo viaggiatori extraterrestri l'avevano già detto. È vero, c'è un'interferenza aliena che le impedisce di esprimere. Attenzione, questo fenomeno è stato già riscontrato in un'antica tribù del Mali, i Dogon. Sì, ma questo lo scriveva Peter Colosimo negli anni 50, le stazioni d'Italia erano piene di questi libri. Ma diciamo sempre le stesse cose. In uno studio più approfondito, questi Dogon, era per capire, questi Dogon, nelle loro rappresentazioni, rappresentano un essere con una tuta spaziale, sì, con la barba, chiamato Nomo, e loro erano già a conoscenza del sistema binario di Sirio B, la stella nana, e dicevano... Non è che la voglio segare, è che... È molto interessante quello che dice, ma fermiamoci un attimo, perché ognuno descrive il suo sapere scientifico sugli alieni e finisce immediatamente la trasmissione. Quello che invece a me interessava questa mattina, riprenderemo dopo l'informazione della borsa, è sentire con il regista Varo Venturi, che penso che sia la prima volta che in Italia un film intero viene prodotto, viene realizzato, viene pensato su un'idea, basata su qualcosa che concretamente esiste, rappresentato in una università italiana, un docente che fa appunto questa sorta di regressioni con i suoi pazienti e li metterebbe di fronte al volto dell'alieno che li sta possedendo in questo momento. È un cortocircuito nuovo, interessante, rispetto alle migliaia di film che si fanno. Per questo ne parliamo oggi, non perché voglia mettere in dubbio la certezza dell'esistenza degli alieni in chi questo crede, o voglia naturalmente affermare oggi che l'alieno ha la stessa dignità di esistenza di ogni altro pensiero. A me è completamente indifferente. Devo solo arrivare alle 11 parlando di questo argomento. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io sono stata portata a bordo di sto volante e sono stata messa sopra un lettino di metallo a cui non aderivo. Ricordo che non ci aderivo, restavo sospesa un tanto così almeno dal lettino. Intorno a me c'erano 3 o 4 creature, io avevo molta paura e mi dicevano non ti muovere. Ti dicevano in che modo? Parlavamo telepaticamente. Mi dicevano non ti muovere, non avere paura. Facciamo in fretta e se stai buona prima ci lasci fare, prima finiamo. Ci lasci fare cosa? Mi fanno segno dalla Lida, volevo capire cosa fanno questa donna gli alieni. Non lo sapremo mai perché me l'hanno fatto interrompere. Questo era il programma Misteri con Enrico Ruggeri su Italia 1, in cui una donna era stata rapita dagli alieni e la mettono sempre sull'orrendo lettino e gli fanno cose innominabili, e poi questa donna probabilmente la sua vita da allora sarà diversa. Questa è un'altra forma di adduzione. Mi dicono c'è l'altra clip che lo spiega. Allora andiamo avanti, non mi lasciate il mistero. E poi porti dei segni di questo? Sì. porto dei segni di ciò che viene. E mi parlavi prima di una cosa fluorescente. Sì, la luminescenza che resta sul corpo è una sostanza che si cerne dalla loro epidermide, che usano nel manipolare il nostro corpo, per loro dicono che la usano come disinfettante. Senti, perché loro hanno bisogno dei tuoi tessuti? E dei miei, e di tanti altri come me, perché siamo una razza biocompatibile. Siamo l'unica razza biocompatibile. E geneticamente siamo la specie che più si avvicina. Questo spiegherebbe tutto, come noi alleviamo maialini per tirare fuori organi in coltura che sono come la pelle, come altre cose, che sono biocompatibili con noi maiali, lo sapete, l'animale che più ci assomiglia da questo punto di vista. Gli alieni potrebbero pensare che gli esseri umani, essendo biocompatibili, possono, ma qui azzardo mie ipotesi, essere fabbriche di organi, possibilità di contenitori per guarire le loro malattie. Anche loro avranno i loro problemi e quindi anche loro penseranno, ammesso che esistano, che ci siano, che queste non siano fantasie, che ci sia un filo che un domani verrà dipanato da chi ha potere, chissà chi può dire, chi ha strumenti per dimostrarlo. Questo è il mondo degli addotti. Questa mattina stiamo parlando di alieni perché è uscito da qualche giorno il film Sei giorni sulla Terra, film di Varo Venturi, che è un film che descrive una sorta di invasione silenziosa e ancora più invisibile di alieni, fatta attraverso appunto infestazioni, attraverso microchip o attraverso meccanismi biologici che entrerebbero negli esseri umani. A fronte di questa teoria c'è un biochimico italiano, Corrado Malanga, che fa delle operazioni di ipnosi, di immersione profonda, fa fare una sorta di viaggio mentale a queste persone, viaggiano volando sopra un mare, vedono un cielo azzurro, poi vedono uno specchio, devono guardare dentro lo specchio, se lo specchio è nero vuol dire che l'alieno impedisce di guardare, se guardano meglio vedono la faccia dell'alieno, insomma riuscirebbe a liberarsi a questa sorta di microchip che condiziona le loro azioni, soprattutto i succhi alla loro anima. Mi fa pensare l'idea del microchip che ci fa fare cose strane. È un fattaccio di cronaca nera di qualche giorno fa. Hanno scoperto l'assassino di una signora anziana al Tuscolano, era il fidanzato della nipote che l'ha ammazzata, l'ha messa nella vasca da bagno, ha provato a sciogliere la colaccia, insomma ha fatto le cose terrificanti. Poi quando l'hanno arrestato, perché la signora, che era vedova di un carabiniere, teneva una videocamera accesa e ha ripreso tutto l'omicidio, ha detto: ma non è colpa mia, avevo un microchip nel cervello, qualcuno mi manipolava con il microchip nel cervello. Questo immaginario del microchip che ci comandi a distanza è qualcosa molto diffusa. C'è chi dice che in altri tempi sentiano le voci, in altri tempi erano santi, dei o demoni che ispiravano azioni malvagie, in questo caso è il microchip nel cervello. Abbiamo al telefono il regista del film Sei giorni sulla Terra, Varo Venturi, che è anche un seguace delle teorie di Corrado Malanga. La questione del microchip, Venturi, potrebbe ispirare anche ad azioni malvagie, azioni negative, chi è infestato da questa modalità? Il concetto di un Lei ha pensato, quando ha letto questo fatto di cronaca, al microchip alieno, naturalmente? No, non sapevo questo fatto di cronaca, l'ho sentito adesso. La possibilità di un dispositivo che possa trasmettere e ricevere mi sembra una normalissima questione che possiamo ritrovare, in cui possiamo riflettere. Don Verzé lo studia da anni, l'ospedale con i pazienti con il microchip che vengono monitorati a distanza, è una cosa che esiste, si può fare. Mi sembra che di microchip si parli, anche senza parlare di alieni, appunto nel mondo di oggi, e credo che anche l'intenzione. Personaggi di... molto ricchi e famosi se lo fanno installare in caso di rapimento possono essere recuperati. Si vocifera di sceicchi che lo fanno inserire alle mogli, me ne hanno parlato dei medici italiani che vengono, ogni tanto fanno mettere il microchip con il GPS perché la moglie non scappi via. Insomma, è una tecnologia che può esistere, questa, non è nulla di straordinario. Certamente per poterla proporre senza spaventare bisogna, come dire, esaltarne i lati positivi, i vantaggi, così come avviene. Quindi, ecco, ma gli alieni cosa userebbe? Un microchip come noi lo conosciamo o è qualcosa di impalpabile, non appartenente al mondo della microtecnologia come la conosciamo noi? Beh, io credo che noi conosciamo poco anche la tecnologia residente, cioè la tecnologia di cui chiamiamo così i terrestri possono adottare, noi la maggior parte delle persone possono fruire, capire, conoscere tecnologie sempre un pochino a scoppio ritardato. Beh, logico, perché è molto, ma molto più avanti. Prima vanno sperimentate, poi le sperimentano i servizi segreti, i grandi centri di potere, poi diventano, che ne so, accendino per, automatico, e uno ce l'ha in tasca. Esattamente, è come la telefonia cellulare che l'esercito americano ha adottato in Vietnam, quando ancora noi stavamo attaccati ai fili, no? A grossi scopi di fili della telefonia. Sì, sì, come il Teflon che usiamo noi, come tante altre materie. Se guardiamo questa cosa in proporzione, pensiamo al fatto che oggi comunque siamo comunque a già un ottimo livello di tecnologia anche a disposizione delle masse, immaginiamo fino a dove potrebbe essere arrivata la tecnologia qui. Su questa, ecco, terra. Ma lei ne sa qualcosa di più rispetto a ciò che sappiamo noi, rispetto alle persone decondizionate da Malanga, a qualche, per aver fatto il film, ha avuto qualche prova che noi non abbiamo rispetto a questa realtà? Beh, diciamo che in qualche maniera, insomma, io più che seguace delle teorie di Malanga, di cui sono semplicemente magari un ammiratore, mi hanno dato la possibilità di ispirarmi un film in cui comunque in ogni caso parlavo di concetti che in qualche maniera ben si intersecavano con lo studio di Corrado Malanga e di tanti altri ricercatori nel mondo, dal punto di vista relativo all'ipnosi regressiva e quindi alle possibilità estreme della programmazione neurolinguistica. Ho ascoltato centinaia e centinaia di ore di ipnosi che in qualche maniera fanno la differenza da quel punto di vista, perché ecco, ma erano pazienti che andavano con l'idea di farsi togliere il microchip con l'alieno, o erano pazienti che normalmente facciano una terapia? Che in qualche maniera fanno parte dell'archivio del professor Malanga, in qualche maniera sono persone prima di tutto che stanno male e che, come ha detto, come ha rilevato giustamente prima, in certi altri determinati ambiti culturali andrebbero dallo psichiatra o dallo psicologo, no? Così come in certi altri, e magari un po' più indietro andrebbero. Perché Malanga è un biochimico, non è uno psichiatra, mi sembra. No? Invece Corrado Malanga è comunque uno scienziato brillante un po' su tanti rami della scienza, di specializzato in chimica e chimica industriale, ma insomma in qualche maniera la sua visione aiuta anche a fare, come dire, un po' da polo, no? da centro di smistamento, perché in qualche maniera tutta questa sua diciamo missione per poter spiegare anche scientificamente, attestare scientificamente tutto ciò che riguarda i rapimenti alieni, lo porta comunque a spiegare poi agli altri un po'. Fermiamoci soltanto un minuto, Ventura. Io ieri ho mandato un PDF che ho trovato che riassume in maniera anche schematica quello che è il training che viene fatto per decondizionare, per togliere questo microchip alieni. L'ho sottoposto a Giuseppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Giuseppe Neri, ospite consueto di questa trasmissione, presidente dell'Associazione Italiana Neurologi Ospedalieri. Beppe, tu hai visto quel documento, hai qualcosa da dire dal punto di vista tuo di psichiatra e neurologo rispetto all'adduzione, rispetto alla metodologia per estirparla, per toglierla? Sono due cose distinte. Io trovo il documento molto interessante perché c'è un'eleganza lessicale e semantica che affascina. Se poi uno vuole applicare criteri che abbiano un minimo rigore scientifico, allora le coordinate anche col GPS di cui parlavi tu diventano un pochino più vaghe. No, il discorso è che secondo me da un lato è interessante la scelta delle parole, perché abduzione intesa come rapimento è molto lontana da induzione, deduzione e abduzione che usava Aristotele. Dall'altro lato Kraepelin, che è uno psichiatra della scuola tedesca che si è occupato di categorizzazione in ambito nosografico più di un secolo fa, aveva già inserito il concetto che in alcune condizioni uno matura il convincimento che ci sia qualcosa di altro da sé. Nella nostra cultura industriale, tecnologica, avanzata, attuale, può essere la capsula. Bisogna capire un pochino se... Beh, tutti gli psicotici pensano aver dentro un ragno, un serpente. Guardiamoci bene dal buttare l'etichetta di psicotici su queste persone, non me la sento assolutamente, sarebbe presuntuoso, vanno molto rispettate queste persone, però bisogna anche capirle e capire quali sono le dinamiche che loro poi manifestano con questo tipo di racconti che sono molto stimolanti e interessanti. Poi, sai, io ho delle risorse intellettive anche abbastanza limitate, non arrivo a capire come i chimici industriali si occupino di dinamiche psicologiche, però questo è un limite mio, insomma. Allora, fermiamoci soltanto un istante, resta con noi Beppe Neri, devo dare la linea velocemente all'informazione del traffico, poi riprendiamo questo interessante dibattito, vedo che gli ascoltatori stanno intervenendo numerosi, segnalandomi le loro esperienze di avvistamento UFO, ma Questa volta trattiamo il problema con un'ottica lievemente diversa, come sentite. Comunque, vi staremo ad ascoltare. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Che gli porti una prova, quello che io ritengo una prova, una misurazione, una fotografia, un filmato, e lui ti dice, hai sbagliato perché il filmato è falso. Gli porti una risonanza magnetica nucleare di una roba trovata nel terreno, dice lo strumento non funzionava. Gli porti la testimonianza di uno che ti dice ma io che si è aperto il muro di notte è entrato uno che sembrava un serpente alto 2,20 metri, e quello ti dice ma figurati se è vero, questa è roba da fumetti. Non ci se ne usciva. A un certo punto abbiamo dovuto cambiare strategia. Perché? Perché a noi cosa ce ne poteva fregare de meno di convincere lo scienziato? A noi ci interessava invece informare l'opinione pubblica, il che è un altro target, un altro bersaglio, una cosa completamente differente. Ecco, questo che ascoltate è preso da YouTube, Corrado Malanga, è il biochimico. Noi abbiamo anche cercato, in questo momento è in Russia, non era impossibilitato a parlare con noi, se non è che si fosse sottratto. Che parla come parlano tutti coloro che trattano l'eterodossia e stanno ai limiti delle scienze accertate e conosciute, parla di come viene presa in considerazione appunto la sua opera. Avevamo il telefono, ci siamo interrotti con Giuseppe Neri, che è il presidente dell'Associazione Neurologi Ospedalieri Italiani. Esiste una possibilità di dare dei termini di affidabilità a quello che dice una persona sotto ipnosi, quando si comincia a entrare nell'inconscio di una persona che si sottopone appunto a una terapia così, così profonda? Allora, qua parliamo di una cosa completamente diversa, Gianluca. Bisogna stabilire una cosa molto precisa. Le tecniche legate all'ipnosi esistono da più di 100 anni, hanno una loro codifica rigorosa, hanno una loro applicazione in campo psicanalitico e psicoterapeutico, e secondo me, dal mio punto di vista, che ripeto è limitato, settario, se vuoi anche professionalmente influenzato, vanno viste in maniera distinta, separata ed altra rispetto a questo discorso che mi interessa, ma su un altro ambito, delle cosiddette abduzioni e rapimenti. Separiamolo. Non facciamo un sillogismo per cui uno equivale all'altro. Allora, in tante condizioni, da più di 100 anni, la condizione, la induzione dell'ipnosi e quello che ne deriva vengono fruttuosamente utilizzati nell'ambito della relazione psicoterapeutica da colleghi che sono formati selettivamente su questo. Nulla da eccepire, ma sono due cose diverse. Qua dice qualcosa di diverso, mi sembra aver capito, hai ragione, che esisterebbe una sorta di disegno che lui avrebbe individuato di un'entità a cui non diamo nome, non diamo esistenza, non diamo limiti e certezze, che scientificamente, in senso sistematicamente, creerebbe comunque delle situazioni invasive nelle menti di alcune persone attraverso tecniche che noi non conosciamo, e lui attraverso il metodo dell'ipnosi della discesa nel proprio subconscio, non so come chiamarla esattamente, riuscirebbe a identificare. Ecco, questo è il senso. Lui usa, secondo me, non propriamente, perché non è uno psichiatra, ma non so se chiunque possa fare questo tipo di cosa, questa tecnica, però porta una sua casistica in cui mi sembra ci siano dei casi ricorrenti in cui avviene qualcosa del genere. Sentiamo Stefania. Stefania. Sì, pronto, buongiorno. Io sono stata ieri a vedere questo film del regista Venturi e devo dire che mi ha abbastanza ben impressionata, anche perché è la prima volta, mi sembra, una produzione italiana di questo genere di film. Dove l'ha visto? A Roma? Sì, sì, a Roma, una sala di Roma. Io sono stato sfortunato, sono andato, in quel momento era andata via la corrente, hanno rimborsato i biglietti. Mi dispiace. E siamo andati via, se no l'avrei visto volentieri. Mi dispiace, perché anche oltretutto devo dire che è stato realizzato bene anche... Sì, vabbè, adesso, a parte questo, se lei continua così, sospetto che lei sia la zia del regista Venturi. Varo Venturi, riconosce parentele dalla signora che ha chiamato? No, mi farebbe piacere, ma no. Ecco, dicevo... che le è andata via la luce. Sì, e ieri è successo al cinema Andrea Doria, allo spettacolo delle 20:30. È stato... Accidenti. Sì, sono entrato, in quel momento era andata via la luce, forse avrei dovuto aspettare, ma non potevo. È successo molti cinema, sembrerebbe, sa? Ah, vede che allora c'è una... Cioè, io, guardi, di questo ho persino una prova, se vuole. Gliela faccio ascoltare. Sapendo se torna la luce, in un'ora che ora, ma non sappiamo se rientra. Allora chi vuole rimborso? Ecco, vede Venturi, per dire che non dico... Se lei dice che è successo in vari cinema... Ma credevo, perché... No, lei, questo punto diventa una notizia. Io, mi è sembrato strano, sono andato alle 20.30, non hanno fatto vedere il finale e hanno detto si è andata via la luce, bisogna aspettare. Dopo un po' me ne sono andato perché i miei figli non c'hanno più voglia di aspettare. Loro erano più ansiosi di me. Stanno venendo i brividi, professore, perché... No, professore, magari... in molte sale d'Italia, ne ho segnalazione praticamente giornaliera. Ah, bene, stiamo dando una notizia, in molte sale d'Italia durante il film di Varo Venturi va via la corrente. O forse questo è il film di Varo Venturi. Me lo sta dicendo seriamente questo? Io sto dicendo... No, sto dicendo seriamente che quello che le è capitato in tantissimi altri schermi in tutta Italia, diciamo, insomma, ne ho segnalazioni continue perché comunque... Io ne ho anche la prova filmato, ho filmato con la mia telecamerina che porto sempre dietro, se vuole io lo posso... sempre tutti a fare. No, alle 20.30 erano usciti, c'è stato un momento, ho aspettato una mezz'ora, mi sono andato. Mi sembrava strano perché c'era in tutto il quartiere la luce e lì era andata via la luce. Questo era stato detto. Torniamo al punto, lei ha sentito, abbiamo fatto il nostro mini scoop quotidiano. Sentiamo quello rispetto a quello che ha detto il nostro neuropsichiatra. A lei non cambia nulla perché lei fa film, è un regista e via dicendo. Però certo, c'è qualcosa che può aggiungere rispetto all'esperienza che ha fatto per girare il film? Qualcosa da aggiungere rispetto all'esperienza del girare il film? No, rispetto proprio al percorso, alle persone che raccontano questa esperienza. Beh, intanto innanzitutto c'è un dato interessante, perché diciamo tutto quello che ho sentito di fine adesso è comunque è assolutamente corretto, o anche corretto, ma è la comunanza di testimonianza fatta, diciamo, riportata dagli adulti sotto ipnosi, quindi diciamo in questa discesa verso il loro inconscio, in questi ricordi che dovrebbero essere in realtà tecnicamente rimossi, è la comunanza di elementi, di scenari, di personaggi in cui si trovano di fronte, insomma tutte le meccaniche, tutta, diciamo, in qualche maniera lo script del loro resoconti corrisponde quasi sempre, e quello è un dato, devo dire, abbastanza impressionante, che al di là delle tecniche, no? Di quanto lecite possono essere le tecniche. Lei ha trovato che ci sia materia sufficiente per farci un film, e l'ha fatto, e spero di riuscire ad andarlo a vedere, se non andrà via la corrente ancora un'altra volta. Ringrazio Giuseppe Neri, ringrazio Varo Venturi, ringrazio e mi dispiace con i tanti che vorrebbero segnalarmi loro visioni aliene, ma non era questa la mattina, parlavamo di altre cose. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.